Il falco. Il falco. E il gabbiano. E il gabbiano. Di Enrico Ruggeri. Oggi parliamo di sport, ma come ormai avrete capito, la maggior parte delle nostre storie di sport sono storie piene di significato, dense, con molti risvolti umani e spesso sono delle vere e proprie storie di riscossa. Bene, quella che vi raccontiamo oggi è una storia emblematica perché parliamo di una donna, parliamo di una grande atleta e parliamo del riscatto non solo suo, ma del riscatto di un intero popolo, il popolo aborigeno australiano. Raccontiamo la storia di Katie Freeman. Away they go. Kathy's final campaign is on the road. Ogden Coyle lead sailing, then Freeman. È il colpo di sparo che segna l'inizio di una delle gare più attese delle Olimpiadi di Sydney del 2000, la finale dei 400 metri piani. In batteria, vestita con una mitica tuta verde che diventerà famosissima, c'è lei, Katie Freeman. Corre per i colori dell'Australia, ma non solo per quelli. In Australia tutti avevano grandi aspettative su di lei, convinti che avrebbe conquistato l'oro. Nessuno si nascondeva l'importanza che avrebbe avuto la sua gara per l'Australia, ma lei si sentiva orgogliosa di correre anche per gli aborigeni australiani. Katie Freeman appartiene alla ristrettissima categoria di sportivi che hanno avuto su di loro il peso della storia, il peso della storia sulle loro spalle. Muhammad Ali, il mondiale contro Foreman, John Carlos in Messico, ricordate la protesta nera nella finale dei 200 metri di Mexico City, Smith e Carlos. Ma la Freeman acquista una rilevanza ancora maggiore perché è donna e perché è simbolo di un popolo, gli aborigeni australiani, che è stato vessato per secoli, discriminato, massacrato, ridotto a uno sparuto gruppo ai margini della bianca società australiana. La sua stessa storia inizia proprio in un luogo remoto dell'Australia. Catherine Astrid Salomé nasce nel 1973 nel Mackay, che è una zona di coltivazione da canna da zucchero nella regione del Queensland, a nord-est dell'Australia. Il nonno è un atleta, gioca nella squadra di rugby, la nonna fa parte della cosiddetta Stolen Generation, le generazioni rubate. È una pratica terribile che ha permesso alla politica di togliere i bambini aborigeni ai genitori per affidarli a famiglie bianche o organizzazioni religiose. E lo scopo era evidente: cancellare la lingua e la cultura aborigena. La sua è una famiglia modesta, con una situazione che precipita quando il padre abbandona moglie e figli. E lei ha solo 5 anni, la mamma Cecilia va a fare le pulizie per mantenere i bambini, è costretta a turni massacranti per assicurare i mezzi a tutti i 5 figli. È un sacrificio che lei non dimenticherà mai. Il mio primo esempio è stata mia madre, una sopravvissuta, una lottatrice determinata, un esempio fantastico per me quando ero una bambina. Un giorno Cecilia presenta ai suoi figli un simpatico signore bianco, Bruce Barber, che diventerà il suo nuovo compagno. Ammirevole, insomma, prendersi una donna con 5 figli non è da tutti. Lui è la prima vera figura di riferimento maschile di Katie, è il suo primo allenatore. Lui è un uomo buono, vuole fare qualcosa per i figli della moglie. Quando scopre che Katie ha un talento naturale, l'aiuta a allenarsi, le regala il primo paio di scarpe da corsa. Per tutta la mia infanzia ho corso senza scarpe, in fondo abitavo ai tropici. E Bruce non si limita a allenare la ragazzina. Quando c'è bisogno di mandare Katie a qualche competizione fuori casa, suona alle porte dei concittadini per sponsorizzare il viaggio. E lei sa come ripagare questo lavoro. A 11 anni vince il campionato dello stato del Queensland nei 100 e 200 metri e salto in alto. Poi la famiglia si trasferisce nell'88. Loro pensano che la cosa migliore, i genitori pensano che la cosa migliore per Katie sia di mandarla in collegio, e la scelta cade su un collegio che offra un programma sportivo. I risultati non tardano a arrivare. 2 anni dopo, nel 90, lei a 17 anni partecipa ai giochi del Commonwealth in Nuova Zelanda, la staffetta dei 4x100 metri, vince l'oro a solo 17 anni, è la prima atleta aborigena a conquistare una medaglia d'oro. A parte un certo talento dato da Dio, credo fermamente che il motivo per cui ho ottenuto così tanto è che la corsa è stata la mia fuga da una vita personale molto caotica. L'atletica è stata il mio rifugio, qualcosa dove potermi rifugiare. Ero sempre felice in pista. E chi era con lei in Nuova Zelanda ricorda una adolescente acerba che fa affidamento sul suo talento, non una stacanovista degli allenamenti, ma è proprio in quell'occasione che Cathy fa la sua prima dichiarazione che in qualche modo suona come politica. Essere aborigena significa tutto per me. Conosco i problemi del mio popolo. Un sacco di miei amici hanno il talento, ma nessuna possibilità. E questa è una dichiarazione importante, anche se un po' imbarazzante per l'ordine costituito. Insomma, è l'inizio di un impegno che si approfondirà di più col passare del tempo, con la presa di coscienza di quanto una figura pubblica possa diventare simbolo, esempio per tutti quelli ai quali è negata la voce. Ma dopo la conclusione dei giochi in Nuova Zelanda arriva un altro avvenimento che segna la vita di Cathy e che contribuisce a darle una spinta verso il suo destino. Il falco e il gabbiano. Vincere i giochi del Commonwealth da adolescente non è cosa da poco, e i giochi del Commonwealth sono una specie di piccola olimpiade dei paesi dell'ex impero britannico. Stiamo parlando quindi di quasi 2 miliardi di persone. Cathy sta crescendo, il suo allenatore si chiama Peter Fortune e comincia a trasformarla in un'atleta completa, più concentrata, più determinata, con più motivazioni. E la più importante è data dalla consapevolezza che le sue vittorie possono diventare le vittorie del suo popolo, gli aborigeni australiani. È una forma di riscatto per tante persone, a cominciare da sua madre, da quella donna che era stata costretta a abbandonare gli studi prestissimo in quanto nera. La cultura alla quale appartengo è sempre stata molto materna. Mi sono sempre sentita sicura di me stessa perché ho sempre saputo di avere dalla mia parte delle donne incredibilmente forti. Discriminati per secoli, privati delle loro terre, delle loro tradizioni, della loro cultura, gli indigeni australiani, che erano loro gli abitanti dell'Australia, e loro conducono adesso una vita misera che conosce solo soprusi, sopraffazione. Pensate che il referendum per permettere agli aborigeni di votare passa solo nel 67, e anche la possibilità per loro di ottenere il diritto di cittadinanza. E lei sopporta proprio quelle discriminazioni. Da piccola, per esempio, quando vince le gare non riceve il trofeo perché è nera. Quando a 15 anni dice che il suo sogno è quello di vincere una medaglia olimpica, le viene detto che una bambina aborigena non può covare e coltivare sogni. Ma per fortuna in famiglia non la pensano allo stesso modo. Di tutti i miei figli, lei è sempre stata quella tranquilla, quella calma e composta. Ma in un modo o nell'altro ho sempre saputo che sarebbe riuscita a ottenere qualcosa di importante nella sua vita. Ma non è tutto. La vita di Cathy non è solo difficile perché è nera. Sua sorella maggiore Anne-Marie, da quando è nata, soffre di una grave forma di paralisi cerebrale. Non si può muovere. Cathy sente di avere un dovere morale nei suoi confronti. Ho corso perché lei non poteva. Ho due braccia e due gambe ed è mio dovere usarli. Altri non hanno questa opzione. Anne-Marie è stata la mia ispirazione. Lei mi ha dato forza interiore e la determinazione che mi distingue dagli altri. 3 giorni dopo la medaglia d'oro conquistata nel 90 ai giochi del Commonwealth, quindi a 17 anni non ancora compiuti, Cathy deve sopportare la morte della sorella Anne-Marie. Muore per un attacco di asma. La medaglia naturalmente acquista un valore ancora più forte, simbolico. Da quel momento è come se la sorella fosse sempre al fianco di Cathy in ogni gara per guidarla verso la vittoria. La prima vera presa di posizione della Freeman a favore della sua gente avviene durante i giochi del Commonwealth nel 94. Siamo in Canada e questa volta lei vince l'oro da sola, nei 200, nei 400 metri piani. Ma dopo aver tagliato il traguardo per prima, lei non prende solo la bandiera australiana, ne prende due, fa il giro di campo sventolando anche la bandiera aborigena, rossa e nera, con un grande disco giallo come il sole nel mezzo. Il gesto non viene apprezzato, il capo della sua squadra porta la faccenda di fronte al Parlamento australiano, ma non ci sarà nessun tipo di strascico, anzi, i tempi stanno cambiando. Finalmente l'Australia comincia a indirizzarsi verso una politica di apertura nei confronti degli aborigeni, una politica, diciamo, di riconciliazione, come la definiscono loro, e in effetti un atleta aborigena che ottiene grandi risultati è funzionale al sistema, è il modo migliore per continuare su questa strada. Così improvvisamente a festeggiare i risultati sportivi della Freeman si trovano sia i bianchi che i neri, una cosa positiva che però ovviamente mette una terribile pressione su Katie, e nel 1996 arriva la sua prima Olimpiade, siamo ad Atlanta. Nel 1996 ad Atlanta ero preparata, ma forse ci si aspettava troppo da me e probabilmente non credevo abbastanza in me stessa. Avevo paura, ero preoccupata di non riuscire ad afferrare la mia grande occasione, quella di entrare nel regno dei migliori del mondo. Arriviamo alla finale. Nella corsia vicina a quella di Katie c'è un'altra atleta, nera anche lei, la gazzella della Guadalupe, francese, si chiama Marie-José Perec, 1,80 m, magrissima, velocissima. La Perec vince l'oro nei 200 e nei 400, Cathy Freeman arriva seconda nei 400 metri, è un grande risultato, è dietro alla più forte del mondo. E poi ricordiamoci, a Atlanta l'Australia ottiene solo due medaglie, una delle due quella di Katie. È un grande risultato che non tarda a essere migliorato, perché nel 97 a Atene ci sono i campionati del mondo e questa volta la gara la vince lei e sfodera di nuovo la bandiera aborigena durante il giro d'onore. Questa volta nessuno ha niente da ridire, anzi, quando torna in patria viene accolta con tutti gli onori. Il falco e il gabbiano. Stiamo raccontando la storia di Katie Freeman, l'atleta aborigena, simbolo delle Olimpiadi di Sydney del 2000, simbolo del suo popolo, in un paese dove i gesti di riconciliazione tra gli indigeni e i colonizzatori bianchi hanno tardato a venire. L'Australia è stato veramente uno dei paesi più razzisti del mondo. Bene, la Freeman diventa il primo vero simbolo di unione tra i due popoli. Il processo di riconoscimento dei diritti degli aborigeni non viene più ignorato né accantonato, anche grazie a lei. Emanuela Audisio, nel libro Bambini Infiniti, scrive queste parole della Freeman. Questa è la storia di Katie Freeman e dei suoi 400 metri corsi da prigioniera, da simbolo di un paese, di una riconciliazione, di un futuro. Se tua madre ha dovuto lasciare la scuola a 12 anni per lavorare, se non poteva viaggiare senza un permesso del governo, se ha passato la sua vita a fuggire dalle ingiustizie e dalle angherie della polizia, se a tuo nonno non hanno mai dato il passaporto né il permesso di parlare ai bianchi, se la tua famiglia è stata deportata perché sindacalmente è troppo attiva, è chiaro che non corri sola, ma per lei, per te, per loro, per i 400.000 aborigeni rimasti, che una volta erano 2 milioni, per i 57 anni di età media di vita contro i 79 del resto della popolazione, perché non vuoi più restare indietro. Ma se la tua corsa è piena di rivendicazioni, di bisogni, di desideri, è chiaro che siete in troppi. Con l'avvicinarsi delle Olimpiadi, migliaia di aborigeni si aspettano che il mondo prenda coscienza della loro situazione, che vengano riconosciuti i soprusi che per secoli sono stati perpetrati a loro danno, dal furto delle loro terre alla politica terribile delle generazioni rubate. E molti di loro, tra quelli più aggressivi, vorrebbero addirittura passare atti più visibili, praticando anche l'uso della violenza. Intanto vorrebbero boicottare i giochi olimpici e sono in molti a chiedere a Katie di non partecipare alle gare, ma Katie o Katie non ci sta a trasformare la sua gara e la sua stessa vita in un atto solo esclusivamente politico. Sono per l'unità e l'armonia, l'unità e la diversità. I boicottaggi non funzionano, darebbero solo segnali negativi. Preferirei essere vista come una giovane donna indigena che sa sfruttare al meglio le opportunità che oggi mi sono concesse. Naturalmente per la parte estremista del movimento aborigeno, il parere è che Katie diventi uno strumento in mano al governo e che sbandierare il suo esempio di integrazione serva a disinnescare la gravità della questione aborigena, distogliendo il pensiero dai veri problemi. Insomma, da lei ci si aspettano gesti plateali, una presa di posizione netta come altri atleti avevano fatto prima di lei, ma Katie non ragiona in questo modo. Io amo la mia gente e da dove provengo, ma non sono alle Olimpiadi per fare politica. Non penso di dover prendere questa decisione per favorire la causa aborigena. Sono ai Giochi Olimpici solo per correre i 400 metri più veloci della mia vita. Durante la cerimonia di apertura di Sydney 2000, la torcia viene passata all'ultimo tedoforo, quello che dovrà andare a accendere la fiamma olimpica, il ruolo più prestigioso, il ruolo che è stato di Muhammad Ali e di tutti quelli che rappresentavano lo spirito olimpico e lo spirito di una nazione. Bene, quella torcia viene presa in mano da Katie e per l'Australia non è un'immagine da poco, è un'aborigena che accende la fiamma olimpica. Ladies and gentlemen, celebrating 100 years of women's participation in the Olympic Games, the Olympic flag, carried by Kathy Freeman, 1996 Atlanta silver medalist and current 400 meters world champion. E mi ricordo la commozione di quel momento, immagino che cosa avvenisse nel cuore, nell'anima di Katie in quegli istanti, e le aspettative stanno crescendo a dismisura. L'Australia intera è pronta a rimanere paralizzata per guardare una gara che potrebbe avere un risultato denso di significato. Insomma, il risultato è una pressione inimmaginabile. C'è così tanta aspettativa in Australia e tanta pressione al di fuori della gara. Riesco a malapena a girare per la strada. Il fatto che le persone mi facciano entrare nella loro vita, nel loro cuore, è una cosa meravigliosa. Ma allo stesso tempo io sono una persona molto timida e riservata. Ed è diventato difficile rilassarmi quando esco. Tutti in Australia sembrano pensare che sono una loro sorella. Gli sembra di conoscermi molto bene. Ormai dovrei esserci abituata, ma non sono sicura che ci si abitui mai a questo livello di attenzione. E la pressione, le aspettative aumentano quando, a pochi giorni dall'inizio delle gare, la grande antagonista di Katie, la mitica francese Marie-José Perec, abbandona Sydney e fa ritorno a casa per motivi che non spiega. Ora tutti gli occhi sono veramente puntati su Katie. Uno dei più famosi commentatori sportivi americani, Bruce McAvaney, ce ne riassume bene il sentimento. Mai in tutta la mia vita ho visto una gara fermare un'intera nazione come questa. Credo che molti australiani avevano un interesse personale in questa gara, perché era una cosa personale per tutta la nazione. Credo che tutti gli australiani si siano sentiti rappresentati di fronte al mondo attraverso questa donna. Adesso che non c'è più la Perec, la Katie Freeman è la grande favorita e questo in un certo senso peggiora ancora di più il suo stato d'animo, la rende ancora più ansiosa. Lei teme di non reggere il ritmo della corsa. La cosa di cui ero preoccupata era di riuscire a controllare i miei movimenti. Ero molto aggressiva e in allerta e quindi temevo di andare troppo veloce e troppo presto nella gara e non avere la forza di reggere gli ultimi 100 metri. E andiamo a viverla quella gara. È un paese col fiato sospeso e in mezzo alle altre atlete c'è lei ai blocchi di partenza. Sembra un'aliena, non è troppo alta, è coperta dalla sua mitica tuta verde, sembra una creatura dello spazio. Poi il giudice spara il colpo che dall'inizio alla gara e tutto un popolo scatta assieme a Katie Freeman. Away, Freeman out well, a mighty roar surrounds the stadium. Ogunpoyer wide sailing. Freeman, they're holding their stagger early. Graham's gone out strongly in the back straight. She's in the middle. So down the back, Kathy, three from the left. Graham's gone out really hard to Guevara. Freeman going strongly up to almost halfway. She's three from the top. You can see Graham inside of her, probably in front. Mary's having a good run. This is where Kathy exploded in Atlanta. Graham's in front of her. Freeman's got work to do here. There's about 150 to go. Guevara and Mary are right up. It's going to be a big finish. Into the straight, Graham leads. Freeman runs up to her. Mary inside. Kathy lifting. Goes up to Graham. Takes the lead. Looks a winner. Draws away from Graham and Mary. This is a famous victory. A magnificent performance. What a legend. What a champion. Kathy Freeman ha vinto la sua medaglia. 120.000 spettatori si alzano a applaudire. E lei rimane lì immobile, è in ginocchio, sembra non capisca cosa le è appena successo, è tutto troppo forte, troppo grande, e ha vinto, riesce solo a dire è un sollievo avercela fatta, si è tolta un peso terribile dallo stomaco, dal corpo, dall'anima, dal cuore, poi si alza e per prima cosa va a abbracciare la madre, poi si libera la testa dalla tuta e si incammina di nuovo per il suo giro trionfale con le solite due bandiere, quella dell'Australia e quella del suo popolo, gli aborigeni. Due mondi finalmente uniti e impegnati, speriamo, a affrontare insieme un futuro di rispetto e tolleranza. Dopo Sydney lei gareggia ancora, ma ovviamente tutto è cambiato, non potrà più correre una gara così importante come quella. Nel 2003 chiude la sua esperienza sportiva, però per chiudere definitivamente i conti col passato serviranno ancora 5 anni all'Australia. Nel 2008 il primo ministro Kevin Rudd chiede formalmente scusa al popolo aborigeno per le umiliazioni, per i soprusi perpetrati dai colonizzatori e per la politica delle generazioni rubate. Nel 2007 Kathy dà vita alla sua fondazione che aiuterà bambini aborigeni a esprimere il loro talento con le stesse opportunità dei bianchi. Voglio utilizzare quello che ho conquistato, quello che ho imparato e forse quello che sono diventata per fare qualcosa per gli altri. Ci sono tante storie di persone che hanno saputo dare un colpo d'ala e poi ci sono storie di persone che con le loro ali hanno trasportato in alto un popolo intero, come è successo alla nostra Kathy Freeman. C'è chi può cadere, può risalire, ma in questo caso sono stati in tanti a poter volare con lei. Se volete mandare dei commenti o segnalare altre vite su cui puntare il mio microfono, scrivete al falco il gabbiano @radio24.it, visitate la nostra pagina su radio24.it o venite a trovarmi, a trovarci nei miei social, Twitter, Facebook, insomma, se volete sapete dove sono. Ciao, a domani.